6 aprile del 2024 inizia prove tecniche di trasmissione qui su Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza e su www.ondarossa.info. Ricordiamo la nostra campagna di crowdfunding, il nostro radio abbonamento che andrà avanti per circa 3 mesi, e sul sito della radio si potrà trovare, si trova il banner specifico e le modalità di adesione. Peraltro, come dico sempre, la possibilità di sottoscrivere per Radio Onda Rossa dura tutto l'anno, quindi per gli interessati ci sono appunto gli spazi specifici per quanto riguarda questa annosa questione. Radio Onda Rossa dal 1977 è una realtà completamente autogestita, priva di qualsivoglia forma di pubblicità, e quindi va avanti con gli sforzi di chi la fa e di chi appunto partecipa sia esternamente sia nei centri sociali con le nostre iniziative, eccetera eccetera. Rapidissimi saluti prima di iniziare, vi dico che abbiamo qui già con cuffia Cristian Muela, con il quale inizieremo una chiacchierata riguardante la sua arte e il suo approccio con quel meraviglioso strumento che si chiama Didgeridoo. Saluto Antonio Zoviet di Omicidio a Firenze, Doriana Panico a Taranto, Lucia Cagliazza di Lupsi che ci sta ascoltando da Udine, Marco Mascia dalla Sardegna, Progetto Sonoro, Anna qui a Roma, Ernesti Panico Brusati dei Panico da Palcoscenico, Tabula Rasa a Cortina d'Ampezzo, Sara Boi a Berlino. Venusia Zozzetta Stramonio, fedelissima. Nicola Locci di Stigma Hexagonal, Antonio Tonietti, Maya che ci sta ascoltando dall'Umbria. Abbiamo anche Cecilia Miradoli del progetto Pindar, Mara Lasi di Calitis, Francesco Cornello a Bergamo. Jean-Claude Bertot, fedelissimo dalla Val d'Aosta. Caro Cristian, prova a parlare, vediamo se tutto va bene. Buonasera a tutti. Voce alta, mi raccomando, il più possibile. Quindi cerco di parlare un po' più alto. Ecco, sì. Perfetto, va bene. Allora, la prima parte di questa trasmissione, appunto, verterà su questa intervista a Cristian Muela. Cristian Muela che nasce a Bari nel 1984. E a vederlo non è di origine sicuramente svedese, ma tutt'altro, quindi da quanto so tu sei di origine italo-congolese. E a questo punto dimmi il tuo inizio con il rapporto, e quindi ce ne parlerai anche, della cos'è un didgeridoo. Allora, ho cominciato ad ascoltare musica col didgeridoo. Che fondamentalmente durante feste in cui sentivo gruppi come Wade Marmalade, didgeridoo, batteria, e insomma era subito festa. E praticamente questa formazione ha appunto la batteria e il didgeridoo, ed era incredibile vedere come uno strumento monotonale poteva in realtà contribuire con tutti quei suoni. Chi conosce uno strumento di questo tipo sa che tradizionalmente è collegato con gli aborigeni australiani, che lo suonano da millenni, e oggi abbiamo adottato il didgeridoo nella nostra musica, nella musica occidentale, quella caratterizzata da gruppi come i Wade Marmalade, Aphex Twin, Jamiroquai, e oggi ci sono un sacco di musicisti che suonano il didgeridoo, soprattutto busker che suonano in strada, musicisti che lavorano nel campo olistico e anche sperimentatori. Io mi sento sperimentatore di questo strumento, e in realtà per me è stato un uno strumento che mi ha avvicinato alla musica, alla voce. Faccio anche ricerca con la voce, con vari strumenti, insomma, continuo a sperimentare musica. Qui leggo che il didgeridoo addirittura nasce come dall'eucalipto. In origine uscì, e che quindi gli aborigeni, credo siano stati loro i primi, lo svuotavano, e da lì poi la cosa bella è che non si sa perché poi hanno fatto il didgeridoo, forse perché all'epoca, in tempi antichi, immagina la situazione: se nel bush stai camminando, nel bush c'è l'acqua che scorre, sì. Ci sono gli animali, i vari versi degli animali, kookaburra, il dingo, ci sono un sacco di animali che caratterizzano i suoni dal bush. C'è anche una visione, un modo di vivere in relazione con la natura, e questi eucalipti cominciano a suonare perché passa il vento e suonano perché sono cavi. Le termiti scavano all'interno degli alberi di eucalipto, e quindi immagina, arriva un aborigeno, sente un suono che risuona all'interno dell'albero e probabilmente ha provato a bussare e ha capito che è un albero che è vuoto all'interno, mm-hmm. Però sente il vento che suona. Adesso sto ipotizzando, sto immaginando qual è stato il poeta, il primo momento in cui un didgeridoo ha cominciato a emettere questo suono, che poi in origine non si chiamava didgeridoo. Gli aborigeni lo chiamavano con altri nomi, mm-hmm. Gidaki, Girdaki, Mago, e quindi per millenni hanno preso direttamente dalla natura questi alberi morti di eucalipto e hanno cominciato a suonarli. Tempo fa portavo avanti una trasmissione anch'io che si chiamava Digerito, e insieme ad altri musicisti avevamo provato a ipotizzare altri modi che hanno permesso agli esseri umani di arrivare a suonare questo strumento. Probabilmente anche semplicemente accendere un fuoco e alimentare questo fuoco soffiando il vento è stato un modo di far suonare un didgeridoo, perché a un certo punto soffiando qualcuno avrà anche provato a fare una vibrazione con le labbra, tipo e questo suono ha risuonato nel didgeridoo. Mm-hmm. E infatti è come se in un certo senso il didgeridoo fosse un'espansione della voce umana e i vari modi di trattare e di tirare fuori la voce. È un tramite per certi aspetti? Sì, possiamo immaginare il didgeridoo come un megafono vocale che in effetti amplifica la voce. È uno strumento assurdo, un potenziale assurdo, perché fondamentalmente puoi emettere una nota, però poi tutti i suoni che passano attraverso entrano in risonanza e quindi si scompone poi il suono. Quindi questa scomposizione è assurdo, che io quando ho cominciato a suonare ho effettivamente fatto una scomposizione di suoni, e in realtà proprio il rapporto con la natura ti riporta a integrare questi suoni. Oggi parliamo di generi musicali, parliamo di strumenti che sono accademici, legati al conservatorio, una storia. Il didgeridoo è uno strumento così antico che oggi è assurdo pensare che è anche avanguardia, perché poi ti riporta a riallacciarsi con una società, una visione della società che per forza è legata al futuro. Ecco, quindi io credo, cioè, che rapporto c'è tra, dopo questa domanda mandiamo anche un pezzo e presentiamo anche uno dei motivi per cui sei qui, oltre che il didgeridoo, insomma, il rapporto tra l'essere primordiale, primitivo, e appunto questa cosiddetta giungla d'asfalto che ci circonda e ci schiaccia. Cioè, uno dei motivi per cui tu per esempio hai cominciato a suonare il didgeridoo è anche un modo di reazione rispetto allo schiacciamento di questo tipo di società? Allora, ho cominciato a suonare Perché qua, sembra quasi una provocazione. Volevo fare musica. Sì, sì, sì. Volevo fare musica e avevo questo. Avevo un digeridoo in bambù. Mm-hmm. Avevo in testa i groove di. Avvicina più. Avevo in testa i groove di brani come Beaches Brew di Miles Davis. Davis, certo. E volevo suonare. Uh-huh. Con il digeridoo, era un didgeridoo in re diesis in bambù, e volevo suonare un brano che era Spanish Key di Miles Davis in Beaches Brew. Ah. Mi era rimasto questo groove e non so per quale ragione immaginavo che potevo emettere un groove di quel tipo. Mm-hmm. E ho cominciato così, con uno strumento che effettivamente permette di visualizzare i suoni e non partire dalle note, dalla successione di ordinata nel tempo di toni. Mm-hmm. Ma di immagini. Mm-hmm. Immagini, sensazioni, quindi poter suonare uno strumento sapendo che molti non lo consideravano uno strumento, alcuni sono infastiditi dal suono del didgeridoo, a me invece dava un'altra sensazione. Ah, ha trovato qualcuno infastidito? Tantissime persone infastidite dal suono del didgeridoo, capita. Sì, sì, no, certo. E poi, niente, provando a fare questi suoni, mi sono reso conto del potenziale di imitare dei suoni della natura e immaginare una musica che non è fatta scrivendola, è fatta immaginando i suoni e producendoli, come si racconta una storia, sì. Però invece di raccontare questa storia la si racconta attraverso i suoni. Perfetto, senti, adesso uno dei motivi per cui tu sei qui è anche la presentazione di una compilation che è uscita proprio nel 2024 e dalla quale adesso sentiamo un brano. Presentaci brevemente questa compilation, da chi è composta, che musicisti la fanno, se sei solo tu o qualcun altro, dici qualcosa. Si chiama Playing and Digging Compilation 2024, se non sbaglio, sì. Dici qualcosa. È una compilation che è una sorta di. E ci parli anche dell'etichetta a questo punto. Di un manifesto delle produzioni di Keep on Digging Records, legate a produzioni musicali del didgeridoo e dintorni, world music, elettronica, sperimentazioni. L'idea è che oggi è possibile fare musica con poco. Do it yourself, no? Come si diceva. Esatto. Mm. Infatti, all'interno della compilation ci sono, oltre a me, ci sono altri didgeriduisti. No, in realtà in questa compilation c'è solo un altro didgeriduista che è completissimo a dirlo. Sì. Infatti ci sono anche i convegni di suonatori di didgeridoo, mi sembra, vero? Delle reunion, come ho letto. Ho cominciato anche perché c'erano questi incontri. Era fighissimo incontrare la tribe di suonatori di didgeridoo. Esatto. Uh-huh. Come. Per esempio c'è il raduno di Ioannis organizzato proprio da Martin O'Loughlin, che è italo-australiano. Mm-hmm. Lui ha partecipato in un brano presente, Vela, presente nella compilation, e anche in una precedente pubblicazione del live fatto durante la rassegna organizzata l'anno scorso. Mm-hmm. A cui ho invitato proprio Martin a presentare il suo percorso musicale, che unisce lo stile tradizionale con una sperimentazione pura. Ha portato uno strumento assurdo. Mm-hmm. Si chiama Pobblebonk, che è praticamente ha scoperto, aggiungendo al didgeridoo un piezo elettrico, e poi da lì in realtà ha fatto diverse versioni. Ha fatto anche un altro strumento che si chiama Medusa, che praticamente semplicemente dall'imboccatura con il piezo elettrico, poi adesso non riesco a spiegare bene come funziona questo strumento, però immagino. Si parte dal suono del didgeridoo e poi esce un suono elettrico. Perfetto. Allora intanto questa compilation esce per questa etichetta che è specializzata, diciamo, in didgeridoo music. Esatto, in questo discorso. Che come si chiama l'etichetta? È sede a Roma, dov'è? Keep on Digging Records. Ok, quindi da questa compilation abbiamo scelto insieme una serie di pezzi. Io direi di iniziare con Lost in the Subway Junction. Queste tracce hanno una ragione d'essere? Perché nascono questi titoli? Perché c'è una ragione oppure è istinto, neanche troppo allora, ragionato? Per esempio questa, Lost in the Subway Junction. Vabbè, l'immagine che volevamo evocare nel brano è un po' riassunta nel titolo. Cioè tu immagina, sei in metropolitana, sei perso, sì, in metropolitana, nelle giunzioni della metropolitana, e ci sono tutti questi suoni, uh-huh, che rappresentano un po' lo scorrere urbano, uh-huh, della vita nel bush della metropoli, e sotterranea, e anche i suoni, certo, che abbiamo tirato fuori. In realtà fondamentalmente è stato Adriano Lanzi a portare, sì, il primo contributo elettronico, Niccolò Fritz la batteria, e io invece portavo il contributo sciamanico con, mm-hmm, una reinterpretazione dei suoni del didgeridoo e anche alcuni passaggi vocali. Bene, adesso ce l'andiamo a sentire questa Lost in the Subway Junction. We'll be right back. Torniamo dunque, si torna in voce. Questo era Lost in the Subway Junction, da questa Plain and Digging Compilation 2024. Come già ti stavo dicendo, Christian, c'è una chat in questo momento particolarmente interessata a te, per cui sanno un paio di domande. Ora te le giro. Yeah. La pausa c'è perché il CD che sta andando in sottofondo, ecco, ricomincia. Allora, intanto ti saluto a Barbara Caridi. Ricambio e saluto. Ok. Ciao Barbara. Anche c'è tal Ernesti Panico Brusati che ti ha visto al Forte Prenestino tempo fa, in una performance. Lì con chi suonavi? Ricordamelo un po'. Tempo fa, allora, c'è stato il 29 marzo. Sì, era quella, credo. Con Laura Desideri, Nuda sì, Vox. Nuda Vox, esatto. Che collaborerà con gli Home Sweet Home nel prossimo concerto. Che ci di sarà venerdì prossimo. Venerdì, questo venerdì. Sì. E peraltro c'è chi fa una battuta, però è interessante. È una battuta, chiaramente, ma. Intanto saluto anche Sirena Velena, musicista d'avanguardia, interessata a ciò che stiamo ascoltando. Antonio Zoviet ci dice che il pezzo di prima c'era un bel basso, la Primus. Ti ricordi i Primus? Era un, no? Come in realtà quasi questo basso quasi fancheggiante. Sì, esatto, questo basso così fancheggiante che ci stava bene. Insomma, suona molto bene sta compilation, che si sviluppa su questi suoni più o meno tutta quanta, oppure ci sono momenti diversi? Allora, aspetta. Sì, la compilation di prima, no? È tutta simile oppure a questo che ci siamo ascoltati? No, la compilation è una raccolta di diverse sonorità, esatto, di diverse esatto. ispirazioni. Questo brano in particolare si rifà, in effetti si rifà tantissime immagini che abbiamo riassunto assieme, sono un po' sovrapposte, sonorità prese da vari campioni e legate comunque a ricerca, influenze trip hop, techno. E i Primus sicuramente tutte e tre li abbiamo ascoltati e hanno sicuramente influenzato il nostro modo, il nostro mood di percepire la musica. In questo caso qua sono più altre sonorità che ci portano a immaginare l'origine di questi suoni. Non riesco a trovare dei riferimenti. Comunque è una cosa, influenza importante in tutto il tuo modo di essere musicista è il mantra, l'essere mantrici. Per esempio la ripetizione, la reiterazione dei suoni. Qui per esempio vengono anche citati i Coil. Non so se conosci i Coil, è di John Balance, una grossa realtà d'avanguardia che da qualcuno è stato riconosciuto soprattutto nell'inizio del brano. E qui c'è Venusia che dice in pratica secondo lui il didgeridoo è uno scacciapensieri con il vocoder. Penso ce ne potresti anche costruirlo. Hai detto scacciapensiere, quello strumento di siciliano, sì, sì, sì, il maranzano, l'erbe vietnamite, a voglia. E beh, fondamentalmente gli scacciapensieri e anche il didgeridoo, tutti gli strumenti che amplificano un suono attraverso una cassa armonica, sono un po' gli antenati del vocoder. È bello anche immaginare che questo strumento risuona nello spazio in cui viene suonato e anche lo spazio in cui si trova fa buona parte del suono. È fondamentale la location, intendi tu? Sì, perché poi certo. Quella vibrazione lì, quell'impatto della vibrazione è possibile perché nello spazio in cui ci si trova risuona e quel risuonare che dà un'identità maggiore al suono stesso, all'evento stesso. Sì. Infatti, a tutto rispetto per il Sweet Bunch, sicuramente che è un locale etico, è ok. Ti è mai successo di suonare in situazioni miniere abbandonate, cava abbandonate? Ho letto che tu sei nato nella grotta di sale di Salgemma. Sì, a Cassino. Ecco, qui e lì come cosa è successo lì? E soprattutto ti è capitato di suonare in queste location così particolari oppure in posti... Adesso mi viene in mente appunto la grotta di sale di Salgemma, la grotta sonora calcata e il giardino sonoro in Sardegna a San Sperate. Forse tra tutti e tre i posti lì in particolare è stata la situazione più mistica. Perché immagina queste pietre sonore gigantesche fatte da Pinuccio Sciola, e suonare lì è stato fantastico. Emozionante, insomma. Aggiungo un quarto momento simile, organizzato al monastero di Astino, uno sleeping concert in cui io ho suonato alle 5 del mattino. Sleeping concert? Sì. Cioè tutti dormivano? Ho cominciato dalle 8 di sera fino alle 8 del mattino, tutti sacchi a pelo, ci si metteva tutti sdraiati lì e c'erano degli artisti che suonavano, si alternavano ogni ora. Io ho suonato alle 5 del mattino. Una sorta di rave? Una sorta di rave sleeping. Bellissima questa cosa, sì. Rave sleeping. Tornando un po' alla tecnica e anche questa sorta di ritualismo che caratterizza il suonare didgeridoo, il fatto del coinvolgimento anche della scatola cranica e della respirazione circolare. Mi rendo conto che te magari lo fai, forse sei più interno a determinate, diciamo, sensazioni. Puoi provare a spiegarle a noi comuni mortali? Allora, è molto semplice perché... Tra virgolette. In realtà per sentire come risuona un suono nella scatola cranica basta tapparsi un orecchio e già per esempio fare adesso un po' un calo di voce, sì. Si comincia a percepire la vibrazione ossea del suono, che comunque normalmente c'è sempre. E con uno strumento come il didgeridoo si sente maggiormente questa vibrazione, e questo anche è molto soggettivo, dipende un po' come risuona la propria scatola cranica con lo strumento, perché non chi è, sempre chi è capoccione, per esempio, chi è capoccione poi insomma. Cioè ogni tanto... Domanda semiseria, il carattere però di una persona, bella questa, il carattere di una persona, per esempio, l'approccio esistenziale, la propria indole, influenza per esempio la risultante, il suono risultante e le vibrazioni suonando un didgeridoo? Allora, la psiche, l'indole. Questa è una cosa che mi sono chiesto tantissime volte perché. Perché sei capoccione tu. È un suono che si propaga tantissimo. Noi siamo fatti di acqua. E più uno è capoccione. Cioè, poi è fatto di vino, eh? Qui c'è gente fatta di vino più che altro anche che scrive. Quindi... Ma poi anche. Vabbè, adesso. Vabbè, dai. Stavo per dire una cazzata, nel senso che. Beh, l'ho detto noi adesso, quindi l'ho detta anche io, quindi la puoi anche dire anche tu. Quindi. Che il suono del didgeridoo trasforma l'acqua nel corpo e nel vino, la stavo per dire, però poi mi sono trattenuto e l'ho detto, ormai è passato questo messaggio qua. No, il suono del didgeridoo sicuramente influenza la psiche di una persona. Poi dipende anche dalla capacità della persona di ascoltare un suono, e a volte molte persone hanno delle resistenze ad ascoltare dei suoni semplicemente perché sono stati percepiti come dei suoni ostili. Quando tu riconosci come ostile un suono così caratteristico come il suono del didgeridoo, poi inevitabilmente finisce che fai fatica a scardinare quell'idea. Tantissime volte, andando anche oltre a chi suona, lo spazio stesso, come risuona lo spazio, si riesce a entrare in empatia con il suono. In altre situazioni si fa più fatica a entrare in empatia, perché magari non è lo spazio adatto. Quindi tante volte quando ho fatto dei bagni sonori, bellissimo, bagni sonori. Sì, poi anche qua partono le battute, gli sciampi sonori, tantissime volte i bidet sonori. I bidet sonori no, ci sono però i letti sonori. Quelli sono abbastanza interessanti, perché poi c'è la vibrazione che si trasmette dappertutto. Cioè, tecnicamente, veramente i letti sonori, cioè? Sono dei letti dove praticamente c'è un foro all'interno del letto. Sì. Tu ti sdrai sul letto, arriva il digiriduista di turno che suona nel foro del letto, quindi trasmette tutta la vibrazione. Uh-huh. E c'erano dei costruttori che conoscevo qua a Roma, adesso cioè che costruivano strumenti, mi dimentico di parlare al microfono. No, costruivano vabbè, strumenti, sente. Poi si erano inventati questi letti sonori proprio per fare dei massaggi, dei trattamenti anche attraverso il suono. E si sottovaluta anche il potenziale di questi trattamenti, che appunto possono innescare dei meccanismi che mandano in controfase quei blocchi che una persona può aver avuto associati a dei suoni. Quindi mi stai dicendo che il didgeridoo ha anche una valenza terapeutica, fondamentalmente? Nella società in cui viviamo assolutamente sì. Perché ed è l'unico esempio, secondo me, a parte che la musica fa bene alla salute, insomma. Quando parliamo di culture terapeutiche, assolutamente stiamo parlando della nostra cultura. Quando parliamo di pratiche antiche, riusciamo a riallacciarci anche a una visione di altre culture, che comunque può insegnarci a stare bene. Diciamo, sì, possiamo parlare di terapeutica, ma possiamo anche dire che fondamentalmente quello che è importante è portare benessere. Infatti qui ci sono gente che ci scherza un po', ma fondamentalmente tipo benefici anche sul perineo oppure dentro le vertebre, eccetera eccetera, ma comunque ti stanno prendendo sul serio, Gio, anche se non sembra. Interessante questo discorso, e adesso ci andiamo ad ascoltare un altro pezzo dalla compilation di cui sopra. Allora, noi abbiamo scelto Riding Glitch Fruits, anzi no, facciamo Raving, che è leggermente... Raving? Wow! Sì, che è uno di quelli che abbiamo concordato, diciamo, in maniera preventiva. Raving, ecco, perché la scelta di questo, che ricorda un po' il discorso che facciamo qualche minuto fa su una sorta di rave, dello sleeping rave. Invece qui Raving, perché l'ha chiamata così? E soprattutto che ci suona questa Raving? Allora, qua sono io da solo, perfetto, DJ tu e basta. Non c'è niente, non c'è elettronica, non ci sono altri strumenti. E effettivamente io cominciavo a suonare questi ritmi e a un certo punto mi sono accorto, cavolo, suono techno con il didgeridoo. È una figata. E mentre dicevo è una figata, attorno a me c'erano altre persone che dicevano è una figata, e tutti ballavano su questa techno. Mi ha ispirato tantissimo la techno, l'ambiente in cui mi trovo ha ispirato tantissime musiche. Tantissime volte faccio fatica a fare questi suoni, questi droni lenti che dovrebbero in qualche modo riavvicinare al cosmo. Mi avvicino molto, molto di più, è per me molto più facile avvicinarmi alla terra, e quindi suonando così di pancia, certo, mi veniva istintivo a fare questi ritmi molto, molto veloci. Va bene, allora adesso ci ascoltiamo questa Raving. Torniamo, e devo dire che io sono rimasto, adesso sembra un, come dire, una sviolinata in diretta, ma effettivamente è stato estasiante questa traccia. Qui si sta dicendo nella chat una sorta di techno suonata, perché c'era molto di, era solo didgeridoo, vero? Solo didgeridoo. Infatti invece sembra, come qualcuno dice qua, quasi un'orchestra, una sezione ritmica, una qualcosa che ci ha ricordato anche, l'abbiamo accennato prima, per esempio Aphex Twin, uno dei primissimi brani di Aphex Twin targato 1990, si chiamava proprio Didgeridoo. Io è uno di quei brani che mi ha un po' introdotto verso l'interesse verso questo determinato strumento. A questo punto poi vedo, leggo qui che tu fai dei workshop. Yes. Che beh, vado anche un po' a descrivere, perché ci sarebbe da farci una puntata a parte. Per esempio, correzione, respirazione, tecniche di riscaldamento per la cura del suono, bellissimo. Vocalizzi armonici e cenni sul canto armonico. Tecniche di base per emissioni di suoni, voce, effetto, tromba. Qui tu sei, diciamo, il maestro e ci sono i discepoli. Insegno a suonare il didgeridoo. E queste sono le tecniche, diciamo, che sono collaterali al tutto ciò che ho letto, no? Queste sono le tecniche per cominciare, esatto, a suonare il didgeridoo. Sono, diciamo, dei riferimenti sulla ricerca. Poi quello che avviene realmente durante una lezione con individuale o di gruppo è uno scambio che porta a diverse ricerche. Fondamentalmente sono le nozioni che chi vuole cominciare a suonare il didgeridoo vorrebbe imparare ad acquisire, ma poi quello che succede è che scopre che cosa gli piace suonando il didgeridoo. Quindi e questo è molto molto soggettivo, è impossibile insegnare perché uno vuole suonare uno strumento, perché uno vuole suonare in quel modo. Quindi più che avere dei discepoli, io creo semplicemente l'occasione di conoscere questo strumento e poter andare ai raduni in cui incontrano altri musicisti di didgeridoo, perché di didgeridoo anche di altri strumenti. Di solito chi suona uno strumento come il didgeridoo sono persone che gli piace entrare in contatto con altre culture, persone che lavorano magari anche con il canto intuitivo, con il mondo dello spirituale, anche dell'esotico, esoterico. Dell'esoterico effettivamente non è capitato, sì, no, forse una volta, nel senso di largo di approccio religioso, insomma. Per esempio, scusa se ti interrompo, sì, io in un filmato di tempo fa vedevo dei monaci buddisti, uh-huh, che suonavano una sorta di lungo strumento, le trombe tibetane. Sono trombe tibetane, c'è, sì, un'attinenza, qualcosa che li può accomunare? Allora, il didgeridoo, trombe tibetane, trombe arcaiche in generale, strumenti anche presenti in Africa, per esempio il kelp horn, che kelp significa alga, un corno fatto d'alga, e ci sono tantissimi strumenti. Qualcuno tantissime volte ha detto: ma è una vuvuzela? C'è il didgeridoo, gli dachi, gli irdachi, mago, ci sono tantissimi nomi di questi strumenti antichi. E ho perso un po' il filo di quello, no, che sto, vabbè, per se dire, c'ho delle attinenze con quello che ho chiesto, cioè se quella tromba, lunga tromba suonata dai monaci tibetani ci fosse un rapporto, ecco, le trombe tibetane a livello di mantra, di per quello che so venivano suonate per come forma di preghiera, sì. Già, diciamo, il percorso spirituale dei monaci tibetani è un po' più evoluto rispetto all'apporto spirituale che il didgeridoo ha avuto nella comunità aborigena. Mm-hmm. Poi la comunità aborigena, ma anche quella tibetana, però in forme diverse, sono state fortemente influenzate dal rapporto con il mondo occidentale. Perfetto. Adesso sono le 21:49, direi di passare a un brano invece estratto dal tuo, credo, ultimo lavoro, Digim Beat, dello scorso anno, se non sbaglio, vero? Uscito a marzo dello scorso anno, 2023. 23 marzo 2023. Perfetto, però prima di sentircelo, ricordaci i progetti dove tu partecipi. Per esempio, cominciamo con Home Sweet Home, che suoneranno il prossimo venerdì qui a Roma. Con chi suoni? Allora, e le differenze tra i vari progetti? Ce n'hai tre, se non sbaglio, al momento, tre progetti musicali, o erro? O ce n'è? Allora, in realtà la compilation stessa raccoglie un po' di vari progetti, varie collaborazioni che insomma daranno vita ad altri progetti. Sì. E, l'idea è quella, poi... Vediamo adesso, perché effettivamente ho portato avanti tantissimi progetti, tra cui Thumb con Giuliano Lucarini, oltre un Sweet Home Jungawool con Francesco Mascio, e in un primo momento con Simone Memè ai video, Primitive Field con Ivan Macera e Roberto Bellatalla. E la differenza tra questi progetti, per esempio, Home Sweet Home è più sul trip hop elettronico, oppure c'è anche Adriano Lanzi che suona con te, mi sembra, vero? Adriano Lanzi suona l'elettronica. La parte elettronica, esatto. In questo progetto suono anche io elettronica, ma principalmente il didgeridoo. Naturalmente. E batteria. C'è un batterista, esatto. Venerdì c'è l'ultimo incontro della rassegna che si chiama come la compilation, sì, Playing and Digging. Esatto. Ho pensato di fare una rassegna e una compilation che riassumono un po' le idee, una parte live, occasione di incontro, appunto di raduno con altri musicisti e suonatori di didgeridoo, sì. E la compilation, che sono musiche di suonatori di didgeridoo. Questa è la seconda raccolta, che però ho deciso di pubblicare con l'intento di creare un manifesto e poi vedere la prossima compilation, cercare di coinvolgere altri didgeriduisti. Comunque venerdì ci potete trovare Sweet Bunch, ci sarà anche Nuda Vox, sì. E qualcuno che ha scritto anche in chat detto di aver sentito Al Forte Prenestino. Grossa voce. Sì, grossa, fortissima, voce. E citando Mauro Tiberi, che anche lui ha collaborato nella compilation in due brani, Drum Beat, anzi Dimension del live concert di Drum Beat insieme a Gianluca Bocconi. Citando lui, citiamo anche il canto bitonale a questo punto. Il canto bitonale, per esempio, esatto. Penso una cosa che ti interessa. Che ha parlato Demetrio Stratos insegnò, ti ricordi? Sì. No? Grande Demetrio Stratos. Insomma, venerdì ci sarà la Tina Turner della Ciociaria. Adesso vediamo. Ma lei lo sa che la chiami così? Adesso vediamo come. Vediamo che dicono. Però era troppo forte come immagine, perché effettivamente ha una voce veramente potente. Sì, potente. E quindi consiglio venerdì di passare sia al workshop che ci sarà lei stavolta a fare un workshop di canto sempre lì prima del alle 6 e poi alle 10:30 ci sarà il concerto di Home Sweet Home, che parte da un brano dei Kraftwerk, ma non c'entra nulla chiaramente con il nome. È ispirato ai Kraftwerk, sì. Perché comunque hanno influenzato un certo tipo di ascolto musicale. Non ho fatto un brano dedicato a loro, tranne nella precedente formazione c'era un finale dedicato al brano Home Sweet Home, in cui finivamo con questo home, che era Home Sweet Home. Home come però misura, unità di misura, non home, ma la resistenza, home, della resistenza, esatto, sì. Della resistenza. E nome che comunque... potenziale evocativo, sempre si rinnova, sempre. Tu hai mai coverizzato, a parte questa, in passato fa qualche cover o vorresti fare hai in mente fare o un album di cover addirittura o una cover estemporanea, ti è successo insomma, mi è successo che mi hanno chiesto se riuscivo a fare una Vasco Rossi. Cover di Michael Jackson e tu ti sei rifiutato, spero. E io ho fatto Beat It con la didgeridoo, sicuramente migliore dell'originale, sicuramente. È stato pazzesco. Fantastico, è stato fantastico, è stato bello vedere le loro facce, sentire Cucabarra, però insomma io ho fatto Beat It. Complimenti. Yes. Allora io ti ringrazio per questa chiacchierata che è durata 54 minuti. Oh yeah. Ritengo piacevole, istruttiva, e domani ci sarà il podcast di questo e anche del resto della trasmissione che andrà avanti di circa una mezz'oretta. Quindi io ti ringrazio e ricordiamo il concerto di venerdì al Sweet Bunch di Home Sweet Home. Mando un brano appunto da Digin Beat, il tuo album, ultimo album come solista, diciamo, dello scorso anno. Un grazie a Christian Muela. Grazie, ciao a tutti.